YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, noi sempre qui in diretta dal Salone Nautico di Genova, o meglio, io sempre qui in diretta al Salone Nautico di Genova, perché Daniele Bellasio quest'anno non c'è. Cosa si sta perdendo? Quest'anno. Cosa si sta perdendo? Quest'anno al Salone non c'è. Ciao Daniele. Ciao. Cosa ti stai perdendo? Una giornata pazzesca. C'è un sole fantastico. Io stamattina sono uscita dalla Verde Brianza e mi ero portata la maglietta, la giacca, il maglioncino, un piumino leggero e anche una sciarpa, perché ho detto non so che tempo farà. E qua ridon tutti. No, perché si fa caldo, si sta benissimo. Vabbè Daniele, per questa volta niente Genova. Mi hanno detto che c'è un sacco di gente. Ma è pienissimo, c'è un sacco di gente, si sta veramente benone. Bello. Ti ho lasciato in folta compagnia. Mi hai lasciato il meglio. Tra l'altro ho appena twittato nella seconda parte di RadioTube. Ti tradisco con un altro figo spaziale che è già arrivato, che sarà in studio con noi tra poco. Quindi Daniele, fattene una ragione. Ha più capelli di me? Eh sì. Ma questo è triste. Me ne farò una cosa ragione. Fare? Comunque cosa non è che fare? Sia in un posto brutto, Cioè, a me manca molto. Dove sei? No, a Trieste, in un altro posto mare, di mare. Per mare anche tu sei al mare, sì. Sì, mi manca il Salone Nautico perché ci andavo sempre con mio papà da piccolo, però per quest'anno mi concederai una pausa soltanto questa volta. Solo per questa volta. Allora, Daniele, questa settimana la campionessa delle notizie viaggiate in rete è ancora lei. Allora, quest'estate, diciamo fine agosto, c'è stata la polemica per il Fertility Day. È successo un po' di tutto in quella campagna lì. Diciamo che non era stata proprio azzeccatissima, era un po'... era così, invece di essere informativa, era un pochino minatoria. Questa settimana sono riusciti... è andato benissimo, no? Sì, hanno proprio azzeccato tutto questa settimana. No, è andato tutto liscio. Tu che ti occupi di politica, come me la commenti questa campagna che ha fatto altrettanto, se non ancora più, furore in rete? Quella degli amici simpatici che erano tutti biondi e quelli con gli amici antipatici che avevano tutti i capelli neri e ricci come me? Ma io ho la sensazione che questa campagna, al di là della polemica politica, delle responsabilità, nasca male perché, come tutte le campagne di informazione pubblicitaria, se tu non hai un messaggio molto chiaro che vuoi dare, poi alla fine fai confusione, o scoppiati qualche altra campagna, o per essere troppo originale sconfini nell'offensivo, o per essere troppo poco originale per andare sul sicuro, appunto copi le precedenti. Cioè, che cosa volevano dire? Tu hai capito effettivamente alla fine, in questi due o tre tentativi di campagna, che cosa si voleva dire? Io sinceramente penso che il problema nasca tutto da lì. Secondo te cosa ha commentato la Lorenzin? Vogliamo sentire come ha commentato la Lorenzin la sua campagna? Ce l'abbiamo, eccola qua. La campagna era proprio brutta, parliamoci chiaro. Allora, però io faccio il ministro, non faccio il comunicatore. Anche se mi piacerebbe moltissimo fare il comunicatore, poi oggi a fare il ministro si fa un po' tutto. Però... per me, siccome mi interessa il messaggio e non la campagna, io ho subito detto prendiamo e la cambiamo e abbiamo chiamato qualcuno che l'ha fatta. Poi, purtroppo, c'è chi è pervicace. Cioè, le piacerebbe tantissimo fare il comunicatore. Non so, allora io non mi intendo di ministri e di ministeri della salute, quindi non so come stia facendo il ministro. Secondo me, come il comunicatore, non è che proprio prometta come carriera, però... deve essere molto difficile fare il ministro appunto di un argomento così importante, però ripeto, anche da queste dichiarazioni, cioè, quale messaggio si voleva dare? Che è bello fare tanti figli? È un messaggio facile da dare di solito, che bisogna avere una vita sana, sì, però allora non è collegato soltanto a una determinata cosa, cioè dovevano un po' restringere tutti, insomma, io non so, francamente anche individuare di chi è la responsabilità in questo caso è complicato, perché poi nei ministeri ci saranno 15 livelli di autorizzazione, 18 tipi di riunioni diverse in cui si discute questa cosa. Però quello che è importante è che un responsabile politico forse deve dare chiaro è il messaggio, l'input iniziale da cui deve partire una campagna. Per esempio, campagne di successo ne abbiamo? Campagne di successo ne abbiamo, come si dice in rete. C'è una nota birra, se non sbaglio, che ha lanciato una campagna di successo, e forse ce l'abbiamo alla radio, ce l'abbiamo? Il 24 e il 25 febbraio si svolgeranno le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Le operazioni di voto avverranno domenica 24 febbraio dalle 8 alle 22 e lunedì 25 febbraio dalle 7 alle 15. Dopo aver votato, si potrà anche festeggiare. Come? Con la Ceres. Per festeggiare con la Ceres, si avrà a disposizione qualsiasi ora del giorno e della notte. Per farlo, basta essere maggiorenni e possedere una Ceres, possibilmente fresca, e una apribottiglie. Allora, noi non è che volessimo fare pubblicità all'oggetto in sé, anche perché anche la scorsa settimana abbiamo parlato di mobilifici, di bibite, però sempre più ci sono queste campagne, che questa era di qualche annetto fa, che utilizzano l'attualità e che riescono a farla diventare comunicazione e pubblicità. Questa era di 3 anni fa, credo, non male. Oppure, per esempio, per venire più all'attualità, a te Brad Pitt ti piace o piace? No, perché i tuoi gusti sono sempre un po' strani. Ah sì, perché poi adesso in questi giorni era tutti, Brad Pitt non è il mio preferito. Certo che se mi invitasse a uscire a bere un caffè non è che gli direi no, Brad Pitt non mi piace, però non è il mio preferito. Ecco, però lo sai che appunto c'è stata questa campagna, no, ulteriore di questa campagna compagnia. Campagna e controcampagna. Allora, la prima campagna qual è stata? Allora, se non vado errato, la compagnia aerea Norwegian, la Norwegian, no? Certo, la conosco Norwegian, bene. Scusami, perché appunto, come sai, il mio English è un po' più... Ma sai che io vado spesso nel nord Europa, quindi frequento e quindi conosco. Lo so, già la Brianza fa parte un po', no? È come periferia di Oslo, praticamente. Sì, è un enclave della Scania, sì. Esatto, sono i Lapponi. C'è stata questa campagna che insomma, sicuramente in rete ha funzionato, che diceva diceva semplicemente Brad è single, quindi tutti con i voli di questa compagnia aerea si può andare in California, peraltro escludendo le donne, cioè era una campagna escludendo esatto, gli uomini. Esatto. Allora, cos'è successo dopo? Perché io non so se ti sei accorto che ha fatto una contropubblicità all'Italia, perché dopo Brad is single con 169 pound per andare a Los Angeles, all'Italia ha fatto ragazzi, tutti a Los Angeles, le ragazze le porta Norwegian. Quindi devo dire si è inserito sull'onda, bravissimi. Perché tra l'altro si sono richiamati a vicenda, quindi l'onda, dunque la seconda compagnia è stata brava a salire sull'onda creata dalla prima, però nello stesso tempo in un certo senso ha ampliato la prima, quindi si sono fomentati a vicenda e sono entrambi diventati virali, solita cosa che si dice in queste circostanze, però appunto divertente, originale, simpatica, botta e risposta. Bravi, sempre più queste pubblicità che viaggiano in rete ci fanno discutere perché ci piacciono. C'è un ascoltatore, Il Rere, che su Twitter ci ricorda anche che la Lorenzin poi nel comunicato ha parlato di prevenzione della salute o prevenzione della fertilità, insomma, prevenzione della salute riproduttiva, vabbè, insomma, non gliene era andata bene questa settimana, ma ripetiamo che vuole fare la comunicatrice da grande. Va bene, va tutto bene, tutto sotto controllo. Anche qui da Genova facciamo che diamo la linea per un attimo al traffico e poi ci ritroviamo. Noi a Genova e tu a Trieste, gli ascoltatori da dove ci stanno ascoltando? A tra pochissimo. YouTube. E siamo ancora in diretta noi dal Salone Nautico di Genova, invece Daniele Bellasio è in trasferta a Trieste, ma ce l'abbiamo al telefono. Daniele, questa settimana è stata una settimana un po' difficile per lo sport, un po' complicata per i rapporti tra sport e politica, è stata un po'... Vuoi parlare delle Olimpiadi? Quasi quasi, già che ci siamo. Vabbè, a me dispiace, cioè, insomma, legittimo ovviamente, il sindaco di Roma ha deciso per il no. A me dispiace perché, insomma, penso che in questa circostanza Roma potesse aver bisogno di una ventata di ottimismo, lo sport, i giochi olimpici, lo spirito che lo sport si porta con sé quando ci sono queste manifestazioni, di solito portano anche, appunto, un ottimismo che una città che vuole ripartire sorridendo può volere con insistenza, però insomma è andata diversamente. No, io invece non lo so, forse questa volta non siamo d'accordo, secondo me, sono molto diffidente, ma sentiamo il no di Virginia Raggi. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. Non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. Questo non lo permetteremo. Vengono fatte tante promesse in occasione di ogni Olimpiade. Ci ricordiamo bene come sono andati i mondiali di nuoto, no? Alla fine siamo pieni di impianti abbandonati, inutilizzabili, che rimangono lì come scheletri e gusci vuoti. Non è questo che debbono essere le Olimpiadi. E per noi non saranno questo. No alle Olimpiadi del mattone. Assolutamente no. Io stavolta non riesco a dare torto alla Raggi, Daniele, così, niente. Però questa volta non siamo sindaco dalla stessa parte. Poteva dire no al mattone, sia alle Olimpiadi, fare delle Olimpiadi, essendo lei sindaco, diverso dalle altre, non lo so. Invece dire non di no alle Olimpiadi... No, invece stavolta non siamo d'accordo, io sono per il no. Tu eri per il sì, eri per il no. Chissà se è davvero finita o se ci saranno altri spirali. No, è finita, Marta. È finita? Non lo so. Sì, mi sembra difficile, non si possono fare delle Olimpiadi contro il volere del rappresentante di una città. Insomma, mi sembra anche non giusto, ecco, quindi... Questa volta non siamo d'accordo. Non siamo sullo sport, d'accordo. Io e te sullo sport difficilmente siamo d'accordo, eh. Però, Daniele, però questa volta voglio fare un regalo a te. Questa volta voglio preparato. Fare un regalo solo Ho per te. Tutti gli amici. Guarda, io lancerei subito una musica e Vai. Siamo a Genova, quindi genovesi, perdonateci. Ma va bene, vincere. Allora, io tipo per un'altra squadra, vabbè, ma in questo momento non vorrei parlarne. Siamo a Genova, quindi Genova ha due altre squadre particolarmente importanti. Però, per fare un regalo a Daniele Bellasio, che non è interista, un po' di più, noi abbiamo al telefono un calciatore, ex calciatore, ma calciatore per sempre, allenatore, opinionista, ma soprattutto campione del mondo. E di fronte a un calciatore del genere io non è che mi levo il cappello, mi alzo dalla sedia e faccio proprio tutta un'ola da sola, il grandissimo, immenso Giuseppe Bergomi. Buonasera! Buonasera, non esagerate, ragazzi. Ma che emozione, a me solo sentir la voce mi viene tutto un brivido, ragazzi. Giuseppe, cioè, Beppe Bergomi vero al telefono abbiamo, incredibile. Noi figli dell'82. Esatto, noi che l'82 ce lo ricordiamo per poco, ma ce lo ricordiamo bene. Daniele, se riesci, perché so che in questo momento puoi essere un po' emozionato, Giuseppe Bergomi è uno di quegli ex calciatori, e non dico ex campioni, ma campioni tout court, che sono diventati grandi commentatori e grandi conduttori. Sì, infatti la canzone è un regalo solo per me, perché in realtà il nostro ospite è il protagonista di una trasmissione televisiva che va in onda su Sky la domenica sera, a mio modo di vedere fantastica, perché è un fenomeno, nel senso che si chiama Il Club, non so se Marta tu l'hai mai vista, è un po' per appassionati veri e propri, perché io devo dire che da quando vedo questa trasmissione davvero, oltre a essere un tifoso, inizio a capire qualcosa di calcio, cioè nel senso che guardo le partite successive con un occhio un po' più indagatore nel capire le regole, anche un po' della tattica. All'inizio pensavo che questo atteggiamento molto tecnico e professionale potesse un po' allontanare il telespettatore, perché è troppo tecnico. In realtà il telespettatore resta avvinghiato perché vuole impararne sempre di più. Loro parlano in un modo molto colloquiale, però molto professionale, e ci insegnano un sacco di cose. Per me questa è una ragione di successo del tutto meritata. Bergomi, è così? C'è spazio per la voglia di capirne di più? Anche perché per anni il calcio è stato chiacchiere, forse troppo bar sport. Per me, personalmente, invece questo approccio mi sembra più interessante. Questa trasmissione è stata appunto così, voluta Fabio Caressa, che poi è il nostro allenatore, no? Un po' Mike Club, è lui che muore un po' la serata, no? Che siamo intorno al tavolo. Effettivamente deve essere un po' più tecnica rispetto al solito, senza esagerare, ma è voluta così per i veri appassionati. E tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, devo dire la verità, che i numeri ci danno ragione, perché la gente ci segue anche a tarda ora, perché dopo la mezzanotte diventa il senza giacca, dove magari si è un po' più informale, si parla un po' di calcio magari straniero, non più italiano, ma effettivamente si cerca di parlare di calcio in una maniera più tecnica, senza alzare la voce, e sapendo che quando arrivano gli allenatori nel post partita sanno, secondo me, di ricevere delle domande tecniche e non magari domande fatte solamente dal giornalista, e questo, visto che lo accettano e lo accettano volentieri, di fatto intanto partecipano anche loro alla nostra trasmissione. L'anno scorso Allegri, dopo la vittoria del campionato, venne a farci visita e fu molto felice. Noi abbiamo sempre questa grande attenzione su quello che dice la rete, perché poi la rete è inevitabilmente collettore degli umori degli italiani, ma anche del pubblico televisivo. Sky Calcio Club raccoglie tantissimi appassionati, e anche sui social grandi domande tecniche, forse fa bene al calcio un atteggiamento anche così un po' più scientifico, un po' meno di umori, Bergomi. Io penso che sì. Io sono un amante della tattica, della tecnica. Ho fatto l'allenatore del settore giovanile, quando alleni i ragazzi, insomma, devi sempre trasmettere a loro quello che tu hai fatto nella tua testa. Quindi l'aspetto tecnico a me piace molto, ma intorno al tavolo poi c'è di tutto, perché ci completiamo. Io penso al Massimo Mauro di turno, che è più bravo a innescare leggermente un po' di polemica. No, quest'anno sì, infatti, abbiamo perso... diciamo che i tweet su Massimo Mauro sono quelli più cattivelli, perché a volte gli dicono che... ma ci vuole che funziona, perché quando ci sono quelli cattivelli vuol dire che funziona. Poi magari, come adesso, ci sono io che sono un po' più tecnico. L'anno scorso avevamo Boban, che sono molto diretto, ma è andato a lavorare in FIFA, l'abbiamo sostituito con Leonardo, che le prime due trasmissioni le ha fatte veramente molto bene, con grande competenza. E poi c'è Luca Vialli, che ci parla sia del calcio nostrano ma anche del calcio inglese, però sempre con un taglio abbastanza tecnico, ed è quello che vogliamo andare ad approfondire negli argomenti che trattiamo. Daniele Bellasio, che non avendolo qua davanti è un po' difficile, perché tanto so che sei lì, che hai mille domande per Giuseppe Bergomi, e lo so, dai, no, vai pure. Allora, io prima di tutto volevo segnalare la genialata di Fabio Caressa, perché portando degli opinionisti così tecnici in trasmissione a parlare, e parlandone in modo molto tranquillo e rilassato, ottiene il fatto che gli allenatori, parlando con loro, si aprono molto di più. Per esempio, settimana scorsa Spalletti ha fatto un'intervista con loro, dove è entrato nei dettagli dicendo, non la classica intervista in cui l'allenatore dice tutta la squadra ha dato il massimo e finisce lì, no, entrando nel dettaglio, parlando delle persone, del singolo, insomma, questo dal punto di vista giornalistico è un colpo di genio, cioè mettendo l'allenatore con dei propri pari a parlare ottiene per il telespettatore molte più notizie, tra virgolette, quindi la cosa è doppia. Sicuramente quello che mi incuriosisce del racconto di Bergomi, e la domanda che farei è questa: quanta differenza c'è nell'analisi di una partita tra quello che si dice durante la telecronaca, perché poi lui è anche, insomma, il più noto, forse il più bravo, il primo commentatore tecnico sulle partite, e poi invece quello che si dice dopo un po', cioè appunto al club, dopo che uno magari la partita l'ha un po' ripensata e nel frattempo però in diretta ha già detto qualcosa. Ecco, come evolve l'analisi di una partita? Bella domanda, perché quando sei sul campo, io stasera sono a Napoli, no, per commentare Napoli-Chievo, e quando fai la telecronaca sei preparato per far capire a casa, perché noi essendo sul campo guardiamo a 360 gradi, far comprendere la partita, fargli gli aspetti tecnici, ma farli vivere in anticipo a chi è a casa, perché tu hai una visione completa e la tua esperienza poi ti fa dire quello che sta succedendo sul campo. Ed è la cosa, e lì devi farla vivere la partita, insomma, darle ritmo, darle intensità insieme alla prima voce, un po' di numeri, un po' di dati. Invece quando la guardi e poi la devi commentare dopo, sei un po' più distaccato inizialmente emotivamente. E poi quando vai, però, hai visto la partita con più calma, perché quando sei allo stadio magari alcune cose ti sfuggono e riesci a dargli un'interpretazione diversa. Quindi anche quando, perché poi cosa devi fare? Devi fare la domanda agli allenatori. E non devi essere mai banale, non devi mai ripetere quello che magari che è a bordo campo, che lo intervista, ti fa 3-4 domande, magari te ne ha bocciato una delle tue, quindi devi essere sempre preparato nell'avere magari una soluzione diversa da proporre all'allenatore. Perché gli allenatori, come hai detto giustamente tu, arrivano quando vedono noi, si lasciano andare, però penso che poi la domanda deve essere anche su basi importanti, perché insomma, loro poi vogliono questo da noi, ecco, quindi questo è la differenza tra le cronache e il post partita, secondo me. A me Giuseppe Bergomi può raccontare di tutto, potrebbe raccontarmi non solo qualsiasi cosa, io sarei qua incantata a sentire raccontare qualsiasi cosa. Proprio... Anche se tu via me mi hai espresso una certa preferenza anche per un altro dei commentatori, sì, del club. Sì, vabbè, lo chiameremo anche lui, chiameremo anche quello che gli piace il calcio inglese, anche quello lì mi piace. Vabbè. Ragazzi, che meraviglia quindi aver avuto Giuseppe. Il tifo tuo. Meno, no. No, ancora dall'altra parte. Nulla. Ancora dall'altra parte. ma così preferisco sembrare un po' super partes. Non diciamo nulla. A me piacerebbe una volta che Giuseppe Bergomi ci venisse a trovare a Radio 24. Quindi, se ti va una volta di venirci a trovare in studio, noi saremmo veramente felici come bambini. Io vienici a trovare la qualche volta. Okay, va bene. Grazie mille. Allora, l'appuntamento dopo le partite, dopo le partite importanti delle 20:45 di domenica sui canali Sky dedicato al calcio, Sky Calcio e Sky Sport, Sky Calcio Club, grazie al grandissimo, immenso campione del mondo Giuseppe Bergomi. Grazie, a presto. A presto, arrivederci, buonasera. Grazie, che meraviglia, Daniele. Cosa faccio? Ci hai fatto? Mi rimetto in viaggio, che dici? Ti raggiungo? Dai, tu... Esatto, allora facciamo una cosa, tu sei a Trieste, non vogliamo, ho paura che la carica del tuo telefonino non ci resista, sì. Dici tu se può rimanere in linea ancora un po' o se ci salutiamo, non so se ci riesci. Facciamo una cosa, per ora ci salutiamo, controlla se la carica del telefonino ancora regge e poi vediamo se riusciamo a ricontattarci in questa ora, siamo ancora per mezz'ora insieme come sempre con RadioTube, va bene? Va benissimo, ciao. Va benissimo, controlla. Ciao Daniele. Noi ci ritroviamo tra poco, traffico, no scusate, una breve pausa, non c'è il traffico alle 45, 17:31, è troppo presto, sono emozionata perché abbiamo un ospite. Tra poco, tra pochissimo, non andatevene. Tecnologia e logistica di magazzino Module Block, avanti anni luce. Vi presento. YouTube. E rieccoci ancora con l'ultima mezz'ora di questo sabato del villaggio lunghissimo in diretta dal Salone Nautico di Genova, ultima mezz'ora del sabato del villaggio, ma soprattutto ultima mezz'ora di RadioTube, perché come sempre la terza ora del sabato del villaggio è quella che si cambia d'abito e che si mette un po' quasi l'abito da sera, diciamo l'abito da aperitivo, quella di RadioTube. Parliamo sempre di attualità vista dalla rete, attraverso la rete, anche attraverso la TV, abbiamo parlato di calcio, adesso abbiamo fatto un regalo a Daniele Bellasio, che oggi non è con noi, è a Trieste, quindi poi cercheremo di collegarci di nuovo con lui, non l'abbiamo tenuto al telefono per tutta l'ora perché sennò si scaricava il telefonino, non saremmo riusciti a salutarlo, ma vorrei fare adesso invece un regalo alla parte della mia timeline di Twitter che segue con grandissima attenzione uno spettacolo che va in onda il lunedì sera su Rai 2, che ha un grandissimo successo, soprattutto in rete fa davvero furore e lo vorrei introdurre così. 3, 2, 1, parte Pechino Express! Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in televisione. 7000 chilometri da percorrere attraverso tre paesi straordinari. 8 coppie in gara, senza mezzi di trasporto, senza alloggio e con un solo euro al giorno. Una rotta estrema e appassionante. Colombia. Da Bogotà, la capitale fondata dai conquistadores spagnoli, attraverso la cordigliera Andina e Medellín, la città dai mille volti, fino a Cartagena, la perla del Mar dei Caraibi. Guatemala, le antiche rovine della città Maya di Tikal, il fascino coloniale di Antigua, le vette impervie del vulcano Pacaya e l'atmosfera magica dei villaggi indigeni sul lago Atitlán. Messico, dai deserti di cactus del Veracruz a Puebla, la città dalle 300 chiese, dalle rovine azteche di Tepoztlán, fino alla conquista di Città del Messico. E stiamo ovviamente parlando di Pechino Express. Questo lunedì la mia timeline di Twitter, come quella di tutti, si è un po' divisa, no? Un po' Grande Fratello VIP, un po' Pechino Express, ma lo zoccolo duro di Pechino Express è fedelissimo. In particolare, i miei amici di Twitter sono tutti impazziti per uno dei protagonisti di quest'annata del reality, che è qui terrorizzato davanti a me. Molto terrorizzato. Ha tantissima paura di quello che gli chiederò. Avete già sentito la sua voce. Allora, uno dei due hashtag estranei, Marco Cubeddu. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti voi. Lui è terrorizzato perché... Allora, noi ci conosciamo da un po' di tempo, ma io ti conoscevo come scrittore. Invece a un certo punto mi dicono, inizia Pechino Express, vediamo chi sono le gare in coppia Pechino Express, Marco Cubeddu. Dico, ma come? Ma senti, ma tu da scrittore come hai deciso di andare a fare Pechino Express? Perché non si vendono molti libri. Ho detto vado in Centro America, magari trovo dei lettori lì. Ah, ecco, eri già pronto a trovare dei... Il mio zaino era pesantissimo, il mio zaino di Pechino, perché avevo copie di libri dietro. Dei tuoi libri. No, beh, è un viaggio, è già un racconto, è già un romanzo in sé fare un viaggio del genere, è un'opportunità, come direbbe Costantino, pazzeschissima. Quindi, pazzeschissima, insomma, hai ragione, per citare un tuo concorrente, un tuo non concorrente, un tuo compagno di avventura. Ma perché il mio incubo, il presentatore Costantino è un incubo, è un uomo crudelissimo, ci ha fatto fare delle cose terribili. Sì, perché è contentissimo quando fate le cose tremende, quando vi fa i quiz, le prove più terribili. E sorprese. Io non posso dire nulla, ma nelle prossime puntate ci saranno delle prove atroci. Fantastico. E lui godeva come un riccio, quindi insomma me lo sogno ancora la notte. Lo so, lui si diverte davvero tanto. Marco, per chi non lo sapesse, infatti molti mi hanno detto, ma come, Pechino non è in diretta, non potrebbe essere in diretta Pechino, perché ha una costruzione molto complessa. Quando siete partiti voi? Noi siamo stati quest'estate praticamente, non posso dire precisamente il periodo, sennò poi uno ricostruisce, allora sei stato via tot giorni, quindi sei arrivato, certo, fino perché a... ovviamente mano a mano ci sono le eliminazioni, quindi non si può sapere quante, non è giusto saperlo perché ci leveremo la sorpresa, quante tappe ogni concorrente ha fatto. Ma la cosa miracolosa di Pechino è che, pur non essendo in diretta dichiaratamente, perché è un grande spettacolo oltre che un racconto di viaggio, quindi c'è una squadra preparatissima nel condurci attraverso tanti paesi, ma anche nel metterli in scena, nel senso di con riprese spettacolari, con giochi molto divertenti, non ci sarebbe modo di viverlo minuto per minuto, però è vissuto così, ma da tutti noi anche mentre lo riguardiamo, e penso che il suo segreto sia un po' questo: la gente mentre lo fa si entusiasma e mentre lo rivede si rientusiasma. È uno show che viene fatto da persone che amano farlo e amano anche riguardarlo contemporaneamente. Altra domanda che si fanno tutti è: ma è tutto vero? Io non ci avrei scommesso un... Cioè anche tu pensavi che un po' di costruzione ci fosse? Io ero convinto ci fosse, invece no. E invece è tutto vero, si dorme veramente in dei posti favolosi o orrendi a seconda di quelli che tu veramente ti trovi da noi sera. Già nelle prime puntate vi abbiamo visto situazioni non proprie, poi insomma, viverle per tutta la notte, poi c'è il montaggio, quindi insomma lo spettatore se le vede per 3 minuti, ma noi ci passiamo 12 ore, 10 certo, ore, 8 ore, certo. Quindi si creano dei momenti realmente fortissimi, si provano delle emozioni che io dicevo, vabbè, sei in televisione, cosa diavolo te ne frega, una volta che sei lì ti hanno ripreso, ma poi tu mangi con quelle persone, dormi con quelle persone e si creano davvero dei legami. A me stanno scrivendo su Twitter, su Facebook, le persone che mi hanno ospitato o che mi hanno dato un passaggio durante questo certo, gioco. Certo, perché poi comunque riesci anche a mantenere... Ma perché là ti scambi, ti chiedono come ti chiami, cosa fai, e poi dopo ti ripescano grazie ai social network, che è una cosa incredibile. Ma davvero? Dici, ma ti ricordi, io ti ho dato quel passaggio, adesso non posso dare dettagli perché di nuovo certo. Sono spaventatissimo. Oh, sì, terrorizzato. Però il concetto è quello, e quindi è tutto verissimo. E io ero convinto da spettatore che fosse un'esperienza bella, profonda e divertente, non pensavo affatto lo fosse così tanto. Io do il tuo account di Twitter, che è @cubamsc, perché così chi non ti avesse ancora seguito, io mi chiedo se tu quando guardi, cioè ovviamente riguardi la puntata, stai lì a controllare anche i social. Ma, cioè stai lì a controllare quello che dicono di te? Ma sì, è la cosa più strana che mi sia mai successa nella vita, perché io magari se non lo so, una sera sono con mia mamma, una sera sono con gli amici, l'altra sera ero insieme ai due youtuber i The Show, che sono la coppia dei socialisti, con noi eravamo lì e costantemente ricevevamo messaggi, cose, commenti in diretta, e ci rivedevamo e ricordavamo delle cose. Oh, guarda, qui sta per succedere questo. Ah, non mi ricordavo affatto che ero il momento in cui Tina litiga, che è già certo. Andato in onda, quindi non anticipo dato niente. Andato in onda, però ecco, tutta quella roba lì è qualcosa che tu hai vissuto e ora che ricordarla la rivedi ed è comunque diversa. E nel frattempo viene anche commentata da altri che la interpretano, la distorcono. Su di te sono tutti innamorati, sono tutti innamorati. Adesso lui si imbarazza tantissimo, ma donne e uomini sono tutti più innamorati, uomini, più uomini. Cioè, è una cosa bellissima. Perché... Cioè, si sono innamorati. Allora, la parte gay della mia timeline, maschile gay della mia timeline, sono tutti innamorati di te, Marco. Ma è una botta di poi autostima dico incredibile. Che sei etero e ci rimangono malissimo. Beh, però mi sono arrivate centinaia sì? di messaggi in cui cercano di sondare la mia eterosessualità. Beh, certo. Cioè, scusa, uno, e di proporre weekend al lago. Mi hanno chiesto di tutto, anche cose irrepetibili, suppongo, in radio, però le ho sentite io. Sì, però è bellissimo. Io devo dire, perché non mi è mai capito nella vita, cioè non ho mai rimorchiato mai, ma non sono proprio capace e nessuna mi cerca di rimorchiare. Mi piacerebbero le donne in teoria, ma però vabbè, qua invece ci farò un pensierino perché ormai veramente icona gay totale Marco Cubeddu. Marco, solo una brevissima pausa, perché adesso sì che c'è la viabilità, perché sono le 17:45, poi torniamo ancora insieme con Marco Cubeddu, uno dei due estranei. Tra poco gli chiedo anche dell'estranea di Pechino Express, a tra poco. YouTube. E siamo ancora al Salone Nautico di Genova, ho ancora uno dei miei genovesi preferiti, Marco Cubeddu da Pechino Express, ma soprattutto è un bravissimo scrittore, che è qui in postazione con me. Ma prima vorrei fare un saluto, perché abbiamo in linea, visto che è tornato tutto il palinsesto di Radio 24, abbiamo in linea uno dei conduttori più amati di Radio 24, il conduttore di Voice Anatomy, Pino Insegno. Ciao Pino. Ciao, scusate, sto col piccolo. Ah beh, stai facendo il papà del sabato pomeriggio, no, sì, è giusto. Ho detto tuo nipote, stavo per appiccicarlo al muro. No, giusto. No. Allora, voi saratomi la domenica alle 14:30, ma sai cosa ho scoperto? Che va benissimo negli scaricamenti dei podcast. Cioè sì, sei un record man dei podcast. No, ma va bene un po' dappertutto, anche perché la domenica è una giornata terrificante. Noi non fate tante domeniche, ma in televisione. Per radio, contro automobilismo, calcio, campionati e qualsiasi altra cosa, è una cosa facile. Però siamo coraggiosi il fine settimana. No, ma è molto interessante il tutto, per cui ha preso, nel senso, quando c'hai attori, doppiatori, cantanti, vocologi, chirurghi della voce, etnomusicologi e qualsiasi altra cosa, è interessante, è un mondo che interessa tantissimo un po' tutti. E poi trattato in questa maniera, un po' da tutorial, un po' da gioco, da gogliardia, poi la gente mi conosce, insomma. sa che le accompagna sempre in un mondo che poi riescano a decifrare. E il successo certo, arriva, magari nel fine settimana uno ascolta un blocco, una mezz'ora, sta andando da una parte o dall'altra, invece poi il podcast te lo ascolti tutto per bene. Esatto, e quella è una strada giustissima, infatti stiamo spingendo moltissimo anche su quello, insomma gli ascolti sono ottimi, se no ci cacciano via, amore mio, per cui dobbiamo andare io bene a vita che vivo di numeri da quel punto di vista, per cui infatti poi io ti dovrò chiedere in separata sede un po' di dritte per far andare bene sti podcast, visto che tu sei il recordman, Pino. No, ma domani rendere non è perché più o meno interessante, è che è una tipologia di trasmissione che raccoglie anche questi tutorial, la gente, la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, più di ogni altra cosa, per un venditore, per un politico, per una persona, per un professore, per tutti noi. E dovrebbero insegnare a scuola come si utilizza la voce, come si utilizza questa canna che ci abbiamo all'interno. Sennò è come che c'è una chitarra e suona il tamburo senza utilizzare le corde. E allora è una cosa che intriga tantissimo, ognuno non accetta mai la propria voce, invece c'è un modo per imparare a studiare la propria voce, ad accettarla, ad amarla e cominciare a utilizzare delle intenzioni nuove che possono anche far sembrare una persona migliore di quello che è, insomma, ma con la voce puoi fare tutto. Allora, sono d'accordo, Pino, ci dai un'anticipazione di domani, poi ti lasciamo andare dal tuo bimbo che c'ha ragione. Domani c'è Bruno Alessandro, che è un grandissimo doppiatore ultra settantenne che va da Derrick a qualsiasi altro tipo di personaggio interessante, poi c'è Sartoretti Andrea, che è il bufalo protagonista di Romanzo Criminale, di Boris, che è nato a New York, ha utilizzato parecchie voci in tutti i film diversi, uno si aspetta che un romanaccio, invece no, parla italiano perfetto, parla un inglese perfetto, per cui anche con lui faremo un percorso attraverso le voci. C'è Frank Merenda, che è un grande amico, ma è il più grande formatore di venditori che abbiamo in Italia e lavora in tutto il mondo, e anche grazie a lui che il podcast spinge tantissimo, perché Frank è veramente un grande, ma veramente non è i guru che fanno soltanto chiacchiere, no, è uno che fa veramente molti fatti. Poi c'è un'avventura particolare di una ragazza diventata ragazzo, per cui l'operazione per cambiare voce, attenzione, si chiama Anatomy la trasmissione, ma è Voice Anatomy, capito? Per cui è interessante anche quel percorso, non andiamo a tratteggiare psicologicamente, non vogliamo risolvere i problemi di nessuno, però anche da questo punto di vista abbiamo analizzato sempre il passaggio da maschile a femminile e con Diego Cossu come si opera, eccetera, eccetera. Domani facciamo il contrario. Straordinario. Domani 14:30, grazie a Pino Insegno. Grazie a che te, bel sento delle a proposito di voci, sento delle belle voci. Che meraviglia. Pino, a presto. Intanto noi abbiamo ancora qualche minuto del nostro RadioTube e io sono sempre qui con Marco Cubeddu, Salone Nautico Genova, e io ho detto voglio un ospite genovese, voglio un ospite di Pechino Express. Ma che strano, niente abbiamo Marco Cubeddu. Marco, hashtag estranei, siete la coppia che non si conosceva prima. No. Tanto ho detto che la mia timeline si è innamorata pazzamente di te, l'abbiamo detto. Tanto Silvia un po' ha messo tutti sotto pressione, perché con questa voce, con questo modo di esprimersi. Ma lei è davvero così? Diccelo, no, fa finta. Guarda, non è così davvero. Sai che uno si chiede, la domanda è ci è o ci fa? No, dai, ecco, no. In realtà è una cosa alimenta l'altra, secondo sì. me. Cioè, uno un po' ci è, a quel punto ci fa, vede che funziona, continua a farci, a quel punto lo diventa ancora di più. È un cane che si morde la coda, ma soprattutto io pensavo a un certo punto che lei fosse così davanti alle telecamere. Ecco, perché anch'io poi un po' lo penso, ti dico la ma verità. Ma io lo speravo più che sì. altro, perché a un certo punto alle telecamere si scarica anche la batteria, no? Quindi uno dice, ok, adesso respiro un attimo. Esatto, perché ho pensato, no. Quando le telecamere si spengono, lei è molto peggio. No, ti prego. Ma è assolutamente peggio, perché non ci sono dei momenti in cui corri, raggiungi quella tappa, prendi quel passaggio, fai quell'altro, che un po' le impediscono di interagire in maniera così massiccia e surreale. Per cui quando le telecamere spente è peggio, la telecamera era la mia l'unica salvezza. Fantastico. Quindi è assolutamente così. Guarda, l'ho vista ieri. E quindi poi non possiamo sapere se è nato qualcosa, perché qua c'era tutta la... Non si può sapere, però vi siete rivisti, se non altro. Ultima domanda, voglio sapere, non potendo sapere quanto è durata, però vogliamo sapere che cosa ti ha lasciato questa esperienza, tipo smetti di fare lo scrittore e fai la televisione? Ma diciamo che io non penso di avere abbastanza lettori per mancare a qualcuno, ma non penso neanche di avere abbastanza spettatori perché mi vogliono. Perché, insomma, temo che finirò a fare l'autostoppista più che altro. Però questo ti sei allenato? Su questo ora sono un vero professionista. Lo facevo l'altro giorno per andare alla Spezia. Ho detto, ma sai che c'è? Quasi quasi ho preso un cartello, mi stavo facendo caricare. Un cartello con scritto Bogotà. La Spezias, perché ormai mi ero orientato nel mood sudamericano. La Spezias, naturalmente. Ah sì, perché c'è la... Las Spezias. No, mi ha lasciato un sacco di appunti. Diciamo che è stato come vivere già in un romanzo, in un racconto. Quindi io già mi immagino qualcosa, che tu possa scrivere qualcosa con questa polemica. Non vedo l'ora di scriverne, effettivamente. Infatti è già tutto scritto, cioè ho vissuto un film e un romanzo contemporaneamente. Invece la televisione è un miracolo. Fantastico, fantastico. Possiamo salutare Daniele Bellasio, l'abbiamo recuperato. Ciao. Daniele, ciao. Ciao, complimenti, sono qua quasi verso Padova mentre ti ascolto. Ah, tu stai viaggiando, bravo. Daniele, tu non l'hai ancora visto Pechino Express? Ma sai qual è il problema? Che tutti mi dicono che è una bellissima trasmissione, stavo dicendo proprio prima, e non l'ho ancora visto, sono colpevole. Però guarda, vai sul sito, vai su Rai Play e ti guardi le puntate. Dai racconti mi ha invogliato molto. No, ma davvero, poi scherzi a parte, allora io ho chiamato Marco non solo perché siamo a Genova e sapendo che lui era genovese volevo averlo in studio, mi faceva anche piacere rivederlo. Abbiamo tutti noi abbiamo una cara amica in comune che è Maria Rosa Mancuso, siamo tutti... Quanto l'amo. Devi sapere, Daniele, che io e Marco ci conosciamo grazie a Maria Rosa Mancuso, quindi è proprio tutto una setta di poeti estinti. Immaginati la critica cinematografica televisiva Maria Rosa Mancuso a Pechino Express. Quello sarebbe la svolta. Dobbiamo già subito suggerire. Mandiamole immediatamente un messaggio. Esatto, sì, lei subito a Pechino. Daniele, grazie per essere stato al telefono con noi. La prossima settimana, guai a te. Torno. Devo fare un bel po' di ringraziamenti. Allora, in regia Andrea Roccabella qui a Genova, Valeria Bernardi a Milano, in assistenza quindi in redazione, quindi senza di loro non funzionava niente, Miriam Lucchetti a Genova, Cristian Goldoni a Milano. Poi ci sono stati anche Angeli Custodi, Alessio Petrucci che ha fatto funzionare tutto e Elena Ligio, senza la quale non funziona proprio niente al mondo. C'era anche Andrea Ferro con noi e finisco ringraziando Marco Cubeddu. Ma grazie a ti voi. Seguirò con ancora più passione. È stato a Pechino bellissimo. Rifacciamolo presto, però ci devi venire a trovare a Milano la prossima volta, va bene? Va benissimo. Allora noi ci ritroviamo sabato prossimo, purtroppo da Milano salutiamo Genova. Ciao a tutti.